Italia in controluce. Pomeriggio di Radio 24 che si apre con Italia in controluce, il consueto appuntamento della redazione di Radio 24 che va in onda ormai da 2 anni e mezzo e che vi racconta ogni giorno con inchieste e reportage, una diversa dall'altra, l'Italia così com'è, quindi una sorta di fotografia del nostro paese con i problemi ma anche con le eccellenze. È dedicata ai partiti, al voto, la quarta puntata dell'inchiesta d'Italia in controluce sulle elezioni amministrative, quelle che si svolgono il 6 e 7 di maggio. Innanzitutto vi ricordo che proprio il 7 di maggio condurrò due speciali, uno dalle 15 alle 17 e l'altro dalle 21 alle 24, dove alle elezioni amministrative mischieremo anche le presidenziali francesi, le elezioni greche, le amministrative tedesche, insomma una sorta di tutto il voto europeo minuto per minuto. Oggi dunque in Italia però i partiti vanno al voto nel momento più difficile dal dopoguerra ad oggi sul piano della loro credibilità nei confronti dei cittadini. Sentiamo il reportage di Cristina Carpinelli. Con questa legge elettorale, con l'UDC che gioca a dividere i moderati, con la Lega messa così, rischiamo di perdere le elezioni. Questo pensiero, sintesi perfetta e brutale, pare sia stato espresso da Silvio Berlusconi e i suoi dirigenti di partito. L'idea non è balzana e non è tanto lontana dal vero, almeno se stiamo ad ascoltare i sondaggisti. SVG ha elaborato un interessante sondaggio sulle intenzioni di voto. Ecco cosa è emerso, ce lo racconta il suo presidente Roberto Weber. Lì ci sono due elementi, se vuole, di effettiva novità: una piccola ripresa, consolidamento ripresa del PDL che va, sale al 24-25%, sfiora il 25%, è un elemento che secondo noi è consolidato e ce l'abbiamo da parecchio tempo, che è quello di 5 Stelle Grillo, no? No, poi cosa c'è di nuovo? Di nuovo c'è che sì, questo è l'elemento nuovo, anche questo relativo, hanno segnalato in altri, siamo quasi ormai al 50%, il 49.9% che ha difficoltà a collocarsi, perché c'è un 30 che dice sono indeciso, non so per chi votare o non dico per chi voterò, e c'è invece un cospicuo 18.5 mi pare, o 18.1 che dice comunque mi asterrò. Ecco, questa astensione così alta dichiarata nei sondaggi non c'era stata mai. Dunque, il 18% degli italiani ha smesso di credere nella politica, non va a votare e non andrà a votare e non intende prendere una posizione. È una cifra che fa davvero impressione. E poi c'è un altro dato su cui riflettere, ed è quello che, a parte questo scollamento, il voto ai partiti, ai grandi partiti, resta praticamente lo stesso di 4 anni fa. Però oggi c'è una variabile ed è il partito di Beppe Grillo, come ci spiega ancora Weber. In fondo ci sono due cose. Se noi prendiamo questo quadro, prendiamo il quadro emerso dalle elezioni del 2008, no? Elezioni politiche. Se lei somma un pochino l'arco delle forze cosiddette, tra virgolette, moderate, un giorno mi spiegheranno cosa vuol dire, però così le chiamano, no? Sostanzialmente PDL, Lega, UDC, FLI sono non molto lontane dai voti che avevano ricevuto nel 2008, la somma complessiva. Se lei somma i cosiddetti, quelli che tradizionalmente stanno sul centro-sinistra, no? Allora CEL, IDV, una volta si presentò sinistra, no? Come sinistra, Sinistra Unita, come si chiamava, comunque adesso c'è CEL, c'è Rifondazione, c'è IDV, c'è il PD, fa la somma di quelli e sono intorno al 44%, grosso modo il voto che abbiamo avuto alle elezioni del 2008. Questo passaggio squassante per gli equilibri sociali, politici, economici del paese, per la vita quotidiana della gente, in realtà restituisce una fotografia dal punto di vista politico, diciamo tra virgolette, di mantenimento degli equilibri antichi. Ecco, è cambiato tutto ma non è cambiato nulla. Dunque, le amministrative valgono come sempre un po' di più di quello che sembra. In questo caso, ad esempio, serviranno a capire chi governerà dopo Monti. Ignazio La Russa è il coordinatore nazionale del PDL. Sentiamo che cosa ne pensa. Comunque in qualunque momento, specie se la legge elettorale nel frattempo premierà non più le coalizioni ma i partiti, io conto sul fatto che il Popolo della Libertà possa essere il primo partito d'Italia. Per noi dal punto di vista delle elezioni amministrative non cambia assolutamente niente, anche perché in nessuna città capoluogo correvamo insieme alla Lega. Avevamo rinviato semmai al secondo turno, al ballottaggio, l'eventuale accordo. Ecco, voi su cosa puntate in questi ultimi colpi di campagna elettorale? Andiamo a quello a cui puntano tutti quelli che corrono, i partiti principali naturalmente, a vincere. Poi ci sono realtà difficili e tradizionalmente ostiche, che so, penso a Genova per dire, dove non c'è mai stato un sindaco di centrodestra, ci sono realtà tradizionalmente meno difficili, anche se hanno avuto in passato sindaci sia di destra che di sinistra come Palermo, e ci sono realtà in bilico come altre situazioni che però hanno una buona tradizione per il centrodestra come Brindisi, come Trani in Puglia, penso alla Puglia in particolare. Per le amministrative, il PD a livello locale ha deciso di fatto un'apertura all'UDC in molti comuni, sia in Puglia che in Veneto. In Veneto, addirittura, ci saranno situazioni quasi al limite. A Jesolo, 25.000 abitanti, il PD sosterrà la candidatura del PDLino Valerio Zoggia. A Thiene, 23.000 abitanti, il PD si allea con il PDL per sostenere il candidato dell'UDC Gianni Casarotto. Cose che accadono, ne chiediamo conto a Rosanna Filippin, segretaria del PD nel Veneto. Nel Veneto ci sono molte amministrative, vanno al voto un paio di capoluoghi, il principale è Verona, ma c'è anche Belluno e diversi centri minori. In queste amministrative il quadro delle alleanze è molto articolato, ad esempio nelle situazioni più significative, cioè Verona e Belluno, il Partito Democratico guida delle coalizioni alternative ai candidati del PDL e della Lega, con candidati che sono emersi anche a seguito di primarie, cioè della scelta del candidato per così dire classica del Partito Democratico. Poi ci sono delle situazioni minori in cui il Partito Democratico contribuisce, anzi meglio, è il protagonista di progetti civici che alcune volte hanno trovato l'intesa con delle forze esterne al centro-sinistra, soprattutto l'UDC e il Terzo Polo, ma in qualche caso, ripeto, situazioni minori anche con il PDL. Il ragionamento che fate è questo, cioè io come PD non potrei mai vincere, però sostengo un candidato del PDL che potrebbe vincere, a quel punto io da outsider in qualche modo controllo la situazione, è un po' contorto o è così? Beh, allora, anche questo se è riferito ad alcuni casi specifici, alcune realtà minori, posso anche dire che è un ragionamento corretto, ma attenzione, noi partiamo sempre dal presupposto che il Partito Democratico nel Nord o magari specificatamente nel Veneto non conti nulla, non è vero, basti pensare che noi governiamo sulle 12 più grandi regioni del Veneto, ne veniamo 8. Le prossime amministrative saranno, per dirla in politichese, un laboratorio dunque. Per gli elettori si tratterà in alcuni casi dell'ennesima disillusione. Per i partiti politici sarà come sempre una tappa per capire dove soffia il vento. Avete ascoltato il reportage di Cristina Carpinelli sulle elezioni amministrative, Italia in controluce. Torniamo domani alle 6.30, dove manderemo in onda la puntata dell'inchiesta sulle amministrative dedicate alle piccole città di Maria Luisa Pezzali.